GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le 12:17 minuti, buona domenica da Giorgio Bearz per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, in cui torneremo a parlare dell'infanticidio di Muggia, il cui duomo ieri sera era gremito per la veglia di preghiera in ricordo del piccolo Giovanni ucciso lo scorso mercoledì dalla madre in un appartamento di Piazza Marconi. Andremo poi a San Vito al Tagliamento, dove è in corso la 75esima giornata provinciale del ringraziamento di Coldiretti, che quest'anno si svolge assieme al giubileo diocesano degli agricoltori. Quindi a Udine con gli ultimi appuntamenti dell'edizione 2025 del Fake News Festival. Infine lo sport con le sconfitte di Trieste e Udine nel basket e il pari tra Triestina e Trento con il gol degli ospiti arrivato in pieno recupero. Un duomo gremito di persone ieri sera a Muggia per la veglia di preghiera in ricordo di Giovanni, il bambino di 9 anni ucciso lo scorso mercoledì dalla madre. Un momento di riflessione organizzato dal parroco Don Andrea Destradi alla presenza del vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi. Nel duomo non sono riuscite a entrare tutte le persone venute in piazza Marconi, molte sono rimaste all'esterno a pochi metri e dove affaccia la casa dove è avvenuto l'omicidio. Tra i presenti anche il papà del bambino, le famiglie dei compagni di scuola e di sport del piccolo e tanti cittadini in una comunità profondamente toccata da quanto successo. Come facciamo a spiegare a noi stessi e a spiegare ai nostri figli che Giovanni è stato ucciso dalla sua mamma? È l'interrogativo di una comunità, quella di Muggia, di cui si è fatto interprete il parroco Don Andrea Destradi durante la messa domenicale in Duomo, proprio di fronte alla palazzina storica di Piazza Marconi, in cui al terzo piano, mercoledì sera, Olena Stasiuk, 55 anni, ha ucciso colpendolo alla gola suo figlio Giovanni Strame, di 9 anni. Di fianco al portone di legno, fiori, lettere, giocattoli e letterine per la piccola vittima, vediamo un gruppo di bambini della parrocchia insieme alle loro catechiste che accendono delle candeline bianche che si aggiungono a quelle lasciate ieri sera e spente dalla pioggia della scorsa notte dal migliaio di persone che ha partecipato alla veglia in Duomo col vescovo di Trieste Enrico Trevisi. Tanti che la Chiesa non è riuscita a contenerli tutti. Presente anche il papà del bambino Paolo Strame, il quale, ha raccontato il parroco Don Andrea, non ha mai avuto una parola di vendetta o di rivalsa contro nessuno in questi giorni, né contro la donna né contro assistenti sociali e giudici che da poco avevano dato il via libera a che la madre potesse di nuovo incontrare il figlioletto Giovanni da sola, nonostante i ripetuti allarmi lanciati dal suo papà sulla pericolosità della donna, la cui situazione psichica andrà indagata con una perizia per verificare se sia compatibile con la custodia cautelare disposta per il rischio di fuga dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, Francesco Antoni. Stasiuk, indagata per omicidio volontario pluriaggravato, resta per ora piantonata dalle forze dell'ordine all'ospedale di Cattinara per le ferite riportate nel tentativo di togliersi a sua volta la vita subito dopo aver compiuto il delitto. Muggia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. In corso a San Vito al Tagliamento la 75esima giornata provinciale del ringraziamento di Coldiretti, che quest'anno si svolge assieme al giubileo diocesano degli agricoltori. Nel servizio sentiremo un'intervista al presidente provinciale del Coldiretti, Matteo Zolin. Sicuramente quest'oggi è una giornata molto importante per Coldiretti Pordenone, una festa molto importante per tutta la comunità di San Vito, per i nostri soci nella provincia di Pordenone, perché si conclude un'annata agraria, si conclude per noi quest'oggi un anno importante, un anno che coincide anche con il giubileo degli agricoltori, quindi dei lavoratori della terra, un anno importante di sacrifici, un anno sicuramente che ha dato molte gioie sicuramente per quello che riguarda le nostre aziende agricole, un momento di riflessione per noi, le nostre famiglie, i nostri soci e uno sguardo positivo con fiducia al futuro per quello che saranno la prossima stagione, quelle che saranno le difficoltà sicuramente che andremo ad affrontare, ma con la fiducia e la speranza che l'agricoltore che semina il campo sa e ha la fiducia che un domani andrà a raccogliere il proprio raccolto. La parola chiave per il 2026, la direzione? La direzione sicuramente è quella di uno sviluppo sostenibile dell'agricoltura, consapevole di quello che è il patrimonio del territorio che abbiamo e quindi integrarlo, queste produzioni agricole, con la promozione proprio stessa del territorio, delle bellezze e della tipicità dei nostri luoghi e dei nostri campi. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo alla situazione meteo, il cielo da variabile ha coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 17 gradi, a Udine 16, a Gorizia e Pordenone 15 gradi e mezzo, a Tarvisio 12 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 12 gradi, a Forni di Sopra 10 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 10 gradi, a Sappada 7 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 5 gradi e sullo Zoncolan 4 gradi e 5 decimi e sulla costa a Grado 17 gradi e 5 decimi, a Lignano 14 gradi e mezzo. Queste le previsioni dell'ARPA. Oggi pomeriggio piogge diffuse su tutta la regione, specie in serata, quando si faranno più consistenti. Domani cielo in prevalenza coperto, con piogge abbondanti, localmente anche intense e temporalesche, specie sulle Prealpi Giulie, dove probabilmente saranno molto intense. Sulla costa soffierà libeccio da moderato a sostenuto, sarà possibile acqua alta e qualche mareggiata al mattino. Dalla tarda sera arriverà la bora e la quota neve scenderà dai 2000 metri a 1000 circa sulle Alpi. Giornata di chiusura a Udine per l'edizione 2025 del Fake News Festival, giunto appunto alla quarta edizione. Al Fake News Festival di Udine, ultima giornata, oggi si è parlato questa mattina di intelligenza artificiale a Palazzo Belgrado in una sala piena, si è parlato di come questa tecnologia sta cambiando la nostra vita, l'ha già cambiata e la cambierà. Ne ha parlato Giacinto Fiore insieme a Pasquale Viscanti che proprio di intelligenza artificiale parlano dal 2019, 3 anni prima di quando ChatGPT è stata resa disponibile al pubblico. Allora, Giacinto Fiore, che cos'è questa tecnologia, come sta cambiando la vita e soprattutto che tipo di reazioni avete dal pubblico quando tenete questi incontri? È una tecnologia che è vero, è nella nostra vita ormai tutti i giorni, è nel nostro smartphone, è nella nostra auto che guidiamo, è negli articoli che leggiamo, è nelle fake news che piuttosto ci vengono propinate. È una tecnologia che però sta trasformando profondamente il nostro modo di approcciarci alla vita, perché insomma abbiamo sempre con noi un co-pilot, un copilota o un compagno di viaggio che ci permette di approfondire degli argomenti, di studiare in maniera analitica e in maniera diversa. Quando partecipiamo ad eventi come questo è incredibile come si ripropongano tutti i vari possibili scenari di chi è super spaventato da questa tecnologia ma semplicemente perché sta chiedendo un aiuto di informazione e chi invece è fortemente entusiasta che invece va bloccato con qualche esempio un po' meno positivo. E allora il nostro lavoro è quello di mostrare entrambi i lati della stessa medaglia, mostrando le cose super positive ma anche i grandi pericoli che ogni giorno sono con noi. Di sicuro quello che sta cambiando grazie a questa tecnologia è il nostro approccio alla comunicazione. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport basket, nella massima serie arrivano due brutte sconfitte per le formazioni regionali. La Pallacanestro Trieste ha perso per 113-94 a Cremona nello scontro diretto con la Vanoli. Non va meglio all'APU Udine, sconfitta al Pallacarnera per 90-94 dal Tortona, rinviando l'appuntamento con il primo successo casalingo. In Serie 2 oggi la Gestrico Cividale affronterà in casa la formazione di Livorno con palla a 2 alle 17. Nel calcio in Serie C è finita 1-1 tra Triestina e Trento allo Stadio Rocco, con gli ospiti che sono riusciti a pareggiare in zona Cesarini al 92esimo con Dalmonte sugli sviluppi di un calcio d'angolo al gol segnato dai padroni di casa con una prodezza di Gunduz al 12esimo del primo tempo. L'avvio è vivace, il Trento alla prima occasione dopo 8 minuti, pressing vincente e Chinetti lambisce l'angolo alto alla destra di Matosevic. La risposta della Triestina è di Vicario, che supera Corradi in dribbling ma perde il duello a tu per tu col portiere del Trento. Tommasi respinge in uscita al destro rasoterra. È la premessa del gol alabardato. Arriva al 12esimo grazie al bolide di Gunduz che sfrutta al meglio una palla vagante in area. La Triestina meriterebbe il raddoppio. Al 35esimo Vicario disorienta la difesa del Trento, ma a dire no è il portiere ospite con un gran tuffo. Tommasi salva la sua porta anche alla fine del tempo su una nuova incursione di Gunduz. Nella ripresa gli ospiti alzano il baricentro senza però impensierire troppo la Triestina che si avvicina di nuovo al raddoppio al 75esimo con Jonsson, il cui destro viene deviato in angolo da un difensore. La beffa in pieno recupero dopo il gran riflesso di Matosevic sul tuffo di testa di Pellegrini. Al 93esimo Dalmonte in mischia su azione d'angolo si ritrova il pallone tra i piedi e con una puntata supera il portiere alabardato, fa 1-1 e regala un punto insperato al Trento. Triestina in classifica a meno 9, la zona play-out è ancora lontanissima, aperta dalla Pro Patria con 9 punti e una partita in meno. Sabato prossimo alabardati a Verona contro la Virtus. Trieste, Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Per la pallanuoto maschile in Serie 1, Trieste impegnata oggi in trasferta nella piscina della Rarinante Savona, inizio alle 14. Pallavolo nella 2 femminile, impegno casalingo per le ragazze di Talmassons contro Fasano alle 16. Nella 2 maschile il Prata Pordenone impegnato in casa contro Macerata alle 17.30. Un incontro dedicato alla longevità consapevole per riflettere sulla mentalità o forma mentis che si può o si deve coltivare per vivere bene a lungo. A organizzarlo l'associazione Lunga Vita Attiva con la partecipazione di Filippo Ongaro, medico e divulgatore della ricerca sulla longevità che ha lavorato a lungo per l'Agenzia Spaziale Europea. Al magazzino 26 del Porto Vecchio a Trieste alle 16.30. E in conclusione si dà lettura di un comunicato sindacale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e dell'USIGRAI. Il giornalismo professionale resta un presidio fondamentale della nostra democrazia, ma la qualità dell'informazione si sta deteriorando. Di fronte alle sfide del mercato digitale, gli editori hanno scelto la strada più facile, tagliare il costo del lavoro, tra stati di crisi, prepensionamenti, licenziamenti e non rinnovare da 10 anni il contratto di categoria. Di fronte alla riduzione degli organici, a un precariato intollerabile e a salari erosi dall'inflazione, sciopereremo il 28 novembre. È uno sciopero per il nostro contratto di lavoro. Vogliamo ricordare agli editori che l'informazione di qualità passa solo da giornalisti professionali e liberi, tutelati correttamente come tutti i lavoratori del nostro Paese, nei loro diritti e nelle retribuzioni. Ed è tutto per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Giorgio Beartz con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano e Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Zeno Duban. Prossimo appuntamento con il GR alle 18.30. A tutti grazie dell'attenzione e buon proseguimento di domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.